spingo boy tic, electro hip hop. Vi introduco Mr. Jink da Torino T.O. Sono quello che resta in ufficio di giorno. Se non mi arrestano poi io ci ritorno. Puoi trovarmi alla Beamish con i regas, dove si consuma hash with the golden extra, dove ogni sera è una serata persa, finisce che si spera che passi quella sversa. Ore 21 ci si trova al chiosco, amaro martini oppure vino rosso. Dalle 23 inizia il percorso, piazza Vitto, tre galli nei locali ci conoscono. Le cose più importanti nella vita sono tre: la famiglia, le donne, fare sempre più cash. No, non parlo in slang, oh, non vesto largo, ma faccio rap e sono un tarlo la come Nash. Torino Electro, uno, sempre al centro, due, sempre in centro, tre, al concerto, quattro, 400 stili in esubero, in 500 mi affianco e ti supero. La Torino Elettro, dietro al vetro ti rifletti, arrivo in retro, ci do come Faletti, ci do i facce fighetti, da tutti i potai, sono come piccola Chetti, prendo casa e vendo il camion. E non diciamo Willa, non facciamo le superstar, io alla prima fila gli chiedo pure le zars, ha contatto la saliva e me ne sbatto della sars. Se la passi sporco barre come bassi in sti bar, Buddha bar, bodyguard, stretto dal boa, io non smetto. Tu va Krakatoa, la mia gola pallottole come le battute dello stregone da Cota quando andiamo al cutre. Oh, è così che va, schiuma in città, adesivo spingo family su una 1 van. Dialettico scasso, lo sai che niente, sorpasso con la Vespa TDI multijet. La Torino Electro, uno, sempre al centro, due, sempre in centro, tre, al concerto, quattro, 400 stili in esubero, in 500 mi affianco e ti supero, bro. Crogioli nella bambagia, pam pam, la famiglia è la minaccia, arriva la sciabola, socio non immagina, macchina sciambola, moglie è gravida, mostri nella cavala, poesia della mente, comandi sulla gente come fossi il tenente, ma non sei niente e ti prende di mira come se ti metti contro a Totorina. Che sfiga fra, produci adrenalina, sei paura, tu sai che arriva, invorticato come Bobby Charlton. Guardi Fresh Prince e mi sembri caldo. Un pacco se ti sdrai lo sai che ti salto, ti spedisco la destinazione sul palco. Oh, 2008, 2008. SBF più ADK, www.myspace.com/TheSpingoBoysFamily. Oh, un saluto speciale, Tonno, Stekovic, Luca Qualiluk, Beamish Club. Supporto speciale, Spingo Girl, Giardini Fante, Torino Electro. Supporto tecnico, Axel Brinks. È l'uomo senza collo.